cassa, alcol a fiumi e poi chi se ne frega. Lotta per i casino, giro di cash non stop. Lo faresti anche tu, non dire di no. Io vorrei andare a Las Vegas, alcol a fiumi e poi chi se ne frega. Lotta per i casino, giro di cash non stop. Lo faresti anche tu, non dire di no. Las Vegas, noi prima a prenotarci. Non ci sono mai andato, ma vorrei già riandarci. Come un po' delirio, due stracci. Con la gente che passa e pensa che poveracci. Questa volta però non bevo in viaggio. Se no poi con che coraggio andiamo all'autolavaggio. E chissà una volta la cosa ci aspetta. Ma prima penso a come andare che non ce n'è fretta. Tra voli low cost, no stop. Last minute, gold cost. Che poi con questo periodo di crisi, con un biglietto da 2,90€ tutti fidi. Io sinceramente non vorrei arrivare salvo. Il problema è quando torno sarò ancora sano. Se no cosa faccio, se no come faccio. A me non serve una mano ma tutto il braccio. Io vorrei andare a Las Vegas, alcol a fiumi e poi chi se ne frega. Rotta per i casino, giro di cash non stop. Lo faresti anche tu, non dire di no. Io vorrei andare a Las Vegas, alcol a fiumi e poi chi se ne frega. Rotta per i casino, giro di cash non stop. Lo faresti anche tu, non dire di no. Non sono il tipo raffinato, mi trovi per terra ubriaco, marcio tutto vomitato. Scaltro come Baxi, con una lama arrugginita stando sopra un taxi. Mi capisci? Ci spendo tutto, medaglione grosso. Blocchi di banconote ed il tuo conto in rosso. Rosso come la faccia di uno pestato a vino. Vedi il mio traguardo farsi sempre più vicino. Ho preso un biglietto di sola andata. Quest'annata non è andata bene ma può essere migliorata. Ma Las Vegas posso svoltare la mia vita. Gioco tutto tutto finché non vinco la partita. E mi trovi con gli anelli e mazzi di collane, con la faccia tatuata in più quattro puttane. Mi ritrovo pure alle serate di gran moda, ma mi sveglio nel mio letto, sono ancora Domus Novas. Io vorrei andare a Las Vegas, alcol a fiumi e poi chi se ne frega. Rotta per i casino, giro di cash non stop. Lo faresti anche tu, non dire di no. Io vorrei andare a Las Vegas, alcol a fiumi e poi chi se ne frega. Rotta per i casino, giro di cash non stop. Lo faresti anche tu, non dire di no.